Bravissimo, nel senso che cosa che non ho fatto col terzo vino, lo facciamo adesso. Se nel primo e nel secondo avevamo fatto una chiacchierata su quelli che erano gli equilibri di questi due vini, se parliamo del terzo vino, in effetti abbiamo un grande alcol, una grandissima morbidezza iniziale, abbiamo secondo me una discreta acidità. Per quanto ne so io e per quanto ne ho provati io, il Gewürztraminer alto a Tesini, ci limitiamo a questa zona, non hanno una longevità paragonabile a quella, anche tanto per fare un esempio, dei primi due vini. Perché, d'altra parte, il Gewürztraminer non vogliono essere dei vini da invecchiamento, da grande invecchiamento. La loro caratteristica più importante è l'impatto olfattivo, cioè grandissime sensazioni odorose, rosa, lici, melone, tutto quello che vogliamo, però non bilanciati. Ci avete fatto caso, una cosa di cui non abbiamo parlato, ma non è così importante, però è un vino che dopo averlo ingerito non ci dà una persistenza in bocca clamorosa. Dei tre vini era il secondo quello che aveva una grandissima persistenza, al limite il primo mi tornava ed era l'ammandorlato finale, anche nel primo avevo un agrumato che mi ritornava in bocca dopo aver ingerito il vino. Su questo sì, abbiamo delle belle sensazioni speziate, ma il vino se ne va abbastanza velocemente. Non è un difetto di produzione di questo produttore, che è bravissimo, ma è il Gewürztraminer, quindi è colto perfettamente nel segno, nel senso che il Gewürztraminer non è un vitigno che dà grandi vini da invecchiamento, da vini di beva, non dico prontissima, possono tranquillamente resistere qualche anno, ma non di più. Diverso il discorso se il Gewürztraminer è sottoposto a vendemmia tardiva, allora cambia un po'. E soprattutto tenete conto che la tendenza altoatesina della gradazione alcolica molto alta, abbiamo dei Gewürztraminer in giro fra i 15,5 e i 16, ha invece un contraltare nettissimo in Germania. I grandi Gewürztraminer tedeschi, Mosella, Renania, zona del Saar, hanno invece come caratteristica grandissima quella di avere 8,5-9 gradi. Costano un botto, vi avviso. Cioè, quando andate a comprare un Gewürztraminer renano, lo fanno in pochi, perché lì patria di Riesling. Però quando lo trovate, buono, grandissimi prodotti, ma molto più bilanciati sul residuo zuccherino. Loro lasciano lo zucchero dentro, cosa che in Italia è vietata per forza di cose dalla legge. Domanda? Allora, quando parlavo della longevità del Gewürztraminer ho fatto la premessa l'Alto Adige, cioè parlavamo di Gewürztraminer. In Alsazia, anzi, i grandi millesimi degli anni 90, degli anni 80, di, faccio un nome, Zinnenbrecht, sono fenomenali. È importante il colore per il commercio. Il titolo di questa degustazione, ribadisco, è perché i vini bianchi sono gialli. Quello che ci appare nel bicchiere, ci appare, non abbiamo. Quello che ci appare nel bicchiere è fondamentale. Nel senso che se noi siamo abituati ad avere dei vini con un certo colore, se per tentare di non utilizzare delle sostanze da aggiungere, questo colore deperisse molto velocemente, il produttore che facesse questo azzardo andrebbe incontro a una situazione assolutamente sfavorevole sul mercato. Nel senso che il colore scadrebbe, andrebbe molto sull'ambrato, e il consumatore italiano, ma mondiale, posso tranquillamente azzardarmi a dire, non è abituato ad avere un vino bianco fresco, non giallo. E quindi ci sarebbe un problema di commercio del vino. Se ci fosse, come dire, una scelta commerciale univoca da parte di tutti di non utilizzare solfiti, avremmo però l'inconveniente di trovarci nel bicchiere, nelle bottiglie, dei vini completamente diversi l'uno dall'altro. La solforosa nei vini bianchi è necessaria, non è un vezzo, non è una furbata. È necessaria perché stabilizza il vino. I due produttori di cui vi parlavo prima, che non utilizzano, ma vieni, prendo, che non utilizzano i solfiti, lo fanno a loro rischio e pericolo, ve lo dico tranquillamente chi sono. Sono Radicon e sono Cante, entrambi friulani, e hanno fatto degli esperimenti di vini prodotti senza aggiunta di anidride solforosa. Vini molto particolari, vini torbidi, difficili da vendere e da bere. Perché? Perché vini che non siamo abituati a vedere nel bicchiere, sembra che abbiano un fondo, ma tanto fondo. E quindi, secondo me, è proprio esclusivamente un discorso di abitudine ad avere nel bicchiere una certa cosa. Non saremmo in grado, ma lo dico, parlo in prima persona, non sarei in grado di bere sempre un vino come quello che fa Cante. Se so che lo fai in quella maniera per provocare, va bene, lo assaggio. Tieni conto che tra l'altro una bottiglia di quel vino costa sui 40 euro. Ma se fossi, come dire, se fosse l'abitudine, se fosse la regola di avere un vino del genere, non ci sarebbe possibilità di commerciarlo. Fate domande, così consentite a quelli, coloro che sono arrivati per ultimi, di riassaggiare il vino, perché altrimenti... Secondo te? Mi astengo da qualsiasi commento. Avete un pezzetto di cioccolato? Dal mio punto di vista ti impasterebbe completamente la bocca. Il cioccolato è la cosa più difficile in assoluto da abbinare. Chi vuole azzardare un abbinamento, porto, rum, eviterei il vino. Anche coloro che si atteggiano a grandi scopritori di abbinamento, il cioccolato ha una persistenza finale. A maggior ragione, per quello che abbiamo detto prima, questo è un vino che scompare in bocca con una certa celerità. E il cioccolato invece è uno di quegli alimenti che più di altri resta in bocca. Se fai mente locale e pensi a quando hai mangiato il cioccolato, pensa al cioccolato fondente o anche al latte, la sua caratteristica fondamentale è quella di restare in bocca, giusto? Di sentir, di, dopo averlo ingerito, sentirlo ancora in bocca. Questo vino abbiamo detto che invece come caratteristica ha quello di avere un grandissimo impatto olfattivo, ma poi di scomparire. Cosa succederebbe? Mangeremmo il cioccolato, sentiremmo l'impatto del cioccolato molto pungente come al solito, berremmo il vino che cerca di contrastare inizialmente, e magari inizialmente lo fa anche, ma dopo averlo ingerito ritorna il cioccolato, cioè sarebbe un abbinamento completamente disarmonico dal mio punto di vista, ma ribadisco, basta poco far la prova. Con un vino con una così scarsa, ma per caratteristica intrinseca del vitigno, persistenza, non il cioccolato. Col cioccolato per quello si abbina tendenzialmente un superalcolico. O al limite qualcuno fa in Sardegna, in Sicilia, dei vini passiti rossi, ok, possiamo discuterne, ma tendenzialmente il rum o il porto o il Pedro Ximenes, ecco, mettiamola così, ma non vino secco, vino normale. Uno strudel speziato invece avrebbe molto più senso, sarebbe quasi un abbinamento perfetto. Quello che manca a questo vino per poter essere abbinato ad uno strudel speziato è un residuo zuccherino più alto, nel senso che comunque, fate la prova voi che lo state bevendo, bevuto questo vino non ha un grandissimo finale dolciastro, finisce secco. Con uno strudel speziato, con dentro tutta la cannella che vuoi, le uvette che vuoi, i pinoli che vuoi, avrei il contrasto dolce secco che non mi garberebbe. Un Gewürztraminer, vendemmia tardiva, sarebbe l'ideale, per cui sì, cioè se invece che altotesino fosse alsaziano mi andrebbe bene, perché in Alsazia i Gewürztraminer sono fatti con più residuo zuccherino. Dei tre vini, quale vi è piaciuto di più alla fine della fiera? Che non è ancora finita, per carità, cioè si va avanti fino alle 10. Secondo, terzo, nessuno dice il primo? Quanti primo? Quanti secondo? C'è un bicchiere di rosso poi in regalo, eh? E il terzo nessuno? Oh, c'è il terzo, ok. Ribadisco, fate tutte le domande che volete, al di là del microfono, dimmi. Come li cucini? I carciofi? Trifolati, saltati in padella, ok. I carciofi, la domanda è fondamentale, perché i carciofi crudi sono inabbinabili. Nessun vino regge il tannino presente in un carciofo crudo. I carciofi saltati in padella, trifolati, con un po' di prezzemolo, insomma, immagino cotti appunto, che poi li fai al vapore, che li fai in padella, mi può cambiare poco. Dipende da come li condisci e da come li utilizzi, nel senso che i carciofi possono essere un piatto unico in abbinamento a un po' di riso in bianco, allora io ci metterei un bianco. Il secondo andrebbe benissimo, ma anche il primo. Il terzo no, l'impatto olfattivo del terzo, ribadisco, o condisco quei carciofi con molto riso e tantissimo curry, e quindi poi ci devo aggiungere un po' di latte, un po' di pane, insomma, devo fargli il sughetto, devo fargli qualcosa, perché altrimenti questo qui come faccio ad abbinarlo? Altrimenti no. Con cosa li hai abbinati di solito i carciofi? No, come vino. È pericoloso? Esplode la cucina? No, invece secondo me no, con la verdura, che sia carciofo, che sia... consigliano ulteriormente, dopo il tè verde, anche la Coca-Cola. La Coca-Cola, secondo me, non perché siamo al Leoncavallo, ma in assoluto non la berrei. Ma il carciofo, come tante verdure particolari, la verza stessa o l'asparago, sono ovviamente abbinamenti difficili, ma una volta che si va a scovare un Sauvignon neozelandese che sa di, lo dico sempre tranquillamente e ribadisco, non perché siamo in questa sede, i Sauvignon neozelandesi della zona di Marlborough hanno un retrogusto di marijuana fresca molto spinto, e quindi non per forza li devo abbinare ad una canna, quelli de gustibus, ma li posso tranquillamente abbinare agli asparagi, ai cavoli, fatti in una certa maniera. Hanno un retrogusto di asparago molto forte questi vini, e quindi l'abbinamento perfetto è un raviolo con un ripieno di asparago a burro e salvia come condimento. Quando vai a scovare queste cose, poi l'abbinamento viene quasi spontaneo. Ovvio, devi assaggiare, il consiglio che do a tutti voi è quello di assaggiare più vini possibili in degustazione durante le serate che ci sono organizzate in giro per Milano, ce ne sono tantissime, approfittatene, ci sono delle cose davvero, davvero particolari che vi possono aiutare ad assaggiare il cibo in maniera quasi perfetta con il vino. Ok. Vi ringrazio per la partecipazione e vi saluto.